Capitolo 3. Basilea, 18 marzo 1545. A Venezia ci si perde, compare, anche quando si crede di conoscerla bene, capito? Si resta completamente in balia di quella città, un labirinto di canali, vicoli, chiese e palazzi che ti compaiono davanti come in sogno, senza un legame apparente con quanto hai potuto vedere fino a quel momento. Pietro Perna, come al solito, si perde a parlare dell'Italia, mentre stappa una bottiglia del miglior vino del mondo. Dalla finestra del retrobottega di Oporinus, il cielo di Basilea è di un grigio che tende al bianco, come se qualcuno l'avesse privato del colore. Ma sarà l'odore del vino, o l'accento latino del mio interlocutore, o l'impressione che il sole inondi la stanza. Non stavate parlando dei presunti autori del Beneficio di Cristo, Messer Pietro? Giusto, risponde, pulendosi il baffo col dorso della mano. Non perdiamo di vista la questione principale. Il libro ufficialmente è anonimo. Ufficiosamente si dice sia stato scritto da Fra Benedetto Fontanini da Mantova. E sotterraneamente si afferma sia opera di menti vicine al cardinale inglese Reginald Pole. Lo interrompo subito. Immagino che non vi spiacerà se vi chiederò qualche informazione in più sulle vicende italiane, perché questa storia di cardinali che citavano Calvino non mi torna fin da principio. E forse il vino non è la bevanda migliore per questa nostra discussione. Sgrana gli occhi e si versa un altro bicchiere. Questo qui è Chianti, signor mio. Potete berne quanto volete, la testa vi parrà sempre più leggera. Lo infiascano i miei genitori in un podere nei pressi del villaggio di Gaiole. È un vino che ha onorato la tavola di Cosimo de' Medici, capito? Una bevanda inimitabile. Si accorge del mio gesto e riprende. Torniamo a noi, compare. Il medico spagnolo Michele Serveto ha descritto gli italiani come diversi tra loro in tutto. Governo, lingua, costumi e tratti somatici. Ci unirebbe soltanto l'antipatia degli uni verso gli altri, la mancanza di coraggio in guerra e la spocchia verso gli ultramontani. Per la fede si può quasi dire altrettanto. Da una parte c'è chi invoca la conciliazione con i luterani, dall'altra chi dà la precedenza assoluta alla guerra contro l'eresia e rispolvera il santo uffizio dell'Inquisizione. Tra il popolo è molto diffuso l'odio per i preti e quindi la simpatia per quella che tutti chiamano la fede germanica. Ma si potrebbe pure dire il contrario, capito? Come si potrebbe anche dire che molti contadini ignorano che cosa sia la Trinità, si comunicano e confessano a Pasqua per far contento il parroco e il resto dell'anno vivono delle loro superstizioni. Cercai di immaginarmi la terra descritta dalle parole di Pietro Perna, mentre sorseggio il secondo bicchiere di quel suo squisito prodotto. L'Italia. Forse è vero che non posso morire senza renderle visita. Del resto, ho la sensazione che molto di quel che ho passato abbia preso le mosse di là. Non da ultimo lo sterminio di Eloi e degli spiriti liberi, che proprio l'Inquisizione ha indicato a Carlo V come eretici, cittadini pericolosi e infedeli. Intanto Perna non smette più di parlare, accompagnando ogni frase con gesti eloquenti. La Lega Smalcaldica dei principi protestanti ha un suo ambasciatore a Venezia, capito? E non pochi gradirebbero che nella Serenissima Repubblica trionfassero le idee luterane. Comunque non potete perdervi una città così, compare. Grazie al commercio c'è tutto quello che un uomo ricco può desiderare di comprare, tutto quello che uno spirito curioso può desiderare di vedere, tutto quello che la carne può chiedere alla capitale del Meretricio, dove una donna su cinque fa, oppure ha fatto, almeno saltuariamente, la prostituta. Infine, grazie ai libri, c'è modo di rimpinguare ulteriormente la borsa, purché si abbia quel po' di coraggio che, a quanto pare, difetta soltanto a noi altri italiani. Terzo bicchiere. Visto che parlate di denaro, Messer Pietro, ho un'idea per voi. Scrivete un libro su Venezia, per invogliare i notabili d'Europa a visitarla, e indicategli dove devono mangiare, dove devono bere, dove possono trovare le accompagnatrici, dove devono dormire. Sono sicuro che il libro avrebbe un grande successo e che i proprietari dei luoghi che indicherete saprebbero ricompensarvi per la menzione. Allunga le mani sul tavolo e afferra le mie, prima che possa ritirarle. Compare, date retta, voi siete sprecato quassù. Basilea, lo sapete meglio di me, è la città dove i pensatori più innovativi, gli eresiarchi più pericolosi, le menti più ribelle d'Europa vengono a far perdere le tracce, a riposarsi, a respirare un po' di quiete. Tutto questo, stare sincero, non fa per voi. Voi siete uomo d'azione. Forse, ma è passato troppo poco tempo dall'ultima ferita. La pelle deve ancora rimarginarsi. Allora bevete, compare. Non c'è miglior unguento di questo. Quarto bicchiere. La testa è davvero leggera.